Bentornati e bentornate all'angolo noir. Ma che cos'è il noir? Il termine noir deriva dall'espressione francese roman noir, che inizialmente si riferiva al romanzo gotico britannico del XVIII e XIX secolo, finché nel XX secolo il significato cambia. Come cambia il significato? E cosa componga il noir, inteso come lato notturno dell'esistenza, sarà il continuo del nostro viaggio che abbiamo iniziato nei castelli gotici, compo dell'Europa centrale, dove il razionalismo illuminista aveva tentato di confinare l'orrore che il desiderio di rompere l'ordine razionale, il desiderio di opporsi alla geometrizzazione della vita, ha invece diffuso dalla Transilvania al cuore di Londra con un unico obiettivo: mandare in pezzi tutto ciò che è dato. There's a disturbance, a riot in my mind. I'm running, running, running down the street. And there's someone trying to do me down. There's a disturbance, a riot in my mind. A fire burning, burning down the street. And there's someone trying to do me down. There's a disturbance. It's like a circus come to town. I see the wagon swaying down the street, splintered children in the scattered dark. A riot in my mind, a razor striking through the doorway. Is there someone trying to cut me down? There's a disturbance. It's like a circus come to town. Shattered mirrors in the hallway. I'm running, running on the broken glass. Oh, ain't you got a safe place? Is there somewhere safe for me to hide? I'm running, running, running down the street. Oh, there's someone trying to do me down. There's a riot in my mind, the streets are quiet. I'm looking for a crowd to hide in. There's a riot in my mind, the streets are quiet. I'm looking for a crowd, looking for a crowd, looking for a crowd to hide in. There's a disturbance, a riot in my mind. Fire, fire burning down the street. This house is burning down. There's a disturbance, there's interference down the line. Don't you hear? I need a safe place. If there's someone trying to do me down, can't you take me to a safe place? Somewhere, somewhere where it's safe for love. I'm running, running, running down the street. Yeah, there's someone trying to do me down. Riot in my mind. Run riot, run riot, run riot, run riot, run riot, run riot, run, run. There's a riot in my mind, but the streets are quiet. Sobborgo ginevrino di Cologne, Svizzera, 16 giugno 1816, una data che sarebbe entrata nella storia. Era un'estate molto particolare quella del 1816. L'anno precedente in Indonesia, nell'isola di Sumbawa, c'era stata una potente eruzione del vulcano Tambora che aveva lanciato nell'atmosfera incredibili quantità di cenere vulcanica. La temperatura globale si era abbassata con ripercussioni in tutto il globo anche l'anno successivo, che per il clima gelido e inconsueto fu soprannominato Anno senza estate. Cinque amici: Lord Byron, John Polidori, Percy Shelley, Mary Wollstonecraft, meglio nota come Mary Shelley, e Claire Claremont, un luogo, Villa Diodati. Nulla sarebbe stato più come prima. Di quella notte, nei suoi diari, Mary Shelley scrisse: «Nell'estate del 1816 visitammo la Svizzera e divenimmo amici e vicini di casa di Lord Byron. Ma quell'estate si dimostrò piovosa ed inclemente. Spesso una pioggia incessante ci confinò in casa per giorni. Ci capitarono per le mani alcuni volumi di storie di fantasmi, tradotti in francese dal tedesco. Da allora non mi è mai più capitato di rileggere queste storie, ma tutti gli episodi sono così freschi e nitidi nella mia mente come se li avessi letti appena ieri. Scriveremo ciascuno una storia di fantasmi», disse Lord Byron, e la sua proposta venne accettata. Ed è così che da quella notte nacque Frankenstein di Mary Shelley e il vampiro di John Polidori, e con loro l'inizio della letteratura gotica. Anche John Polidori scrisse di quella notte e scrisse: «Mezzanotte, abbiamo cominciato a parlare in modo davvero spettrale. Lord Byron ha recitato alcuni versi e poi è seguito il silenzio, e Shelley, lanciando d'un tratto un grido e portandosi le mani in testa, è corso via dalla stanza con una candela in mano. Gli abbiamo gettato acqua in viso e dato dell'etere. Stava guardando la signora Shelley e d'un tratto aveva pensato ad una donna di cui aveva sentito parlare, che aveva gli occhi al posto dei capezzoli. La qualcosa, preso possesso della sua mente, gli aveva fatto orrore». Ma che cosa avevano letto i nostri cinque amici a Villa Diodati? E chi erano i nostri cinque amici? Thank you. Parigi, 1812. A pochi passi dai resti del convento gotico dei Cappuccini, devastato durante la rivoluzione, facevano ingresso due tomi, fantasmagoriana. Erano la traduzione francese delle storie di spettri tedesche che erano state lette a Villa Diodati. Fantasmagoriana riprendeva lo spettacolo Fantasmagorie che in quelle rovine era portato avanti nel buio di fronte a spettatori increduli da Robertson. Misteri egizi, elettricità, galvanismo, necromanzia, scienze occulte, scheletri, fantasmi, dei antichi, ma anche l'ombra di Voltaire o la testa mozzata di Danton venivano proiettati da una piccola lanterna magica in un fitto oscuro mistero. La rivoluzione del resto era un ricordo ancora vivo e i terrori destati dalla fantasmagoria erano anche in qualche modo reminiscenze di un altro terrore, uno concreto, uno storico, che gli spettatori avevano conosciuto in prima persona. Tanto erano pervasi dal terrore che a un certo punto le autorità decisero di sospendere lo spettacolo quando si sparse la voce che Robertson potesse riportare in vita il re Luigi XVI. La lanterna aveva smesso di proiettare le sue illusioni. Quando smetteva, appariva l'impresario, il quale diceva che egli voleva semplicemente spiegare come l'occulto e i fenomeni soprannaturali erano stati utilizzati dai sacerdoti delle antiche religioni per ingannare i fedeli. In questo senso si proponeva un fine rivoluzionario. is calling out your name. Look out, I play inside your brain. Free from my shadows, you'll never pass my test. Don't you know that ghosts never rest? Phantasmagoria, sleep well. Phantasmagoria, inhale. Del soprannaturale, inteso come opposizione alla norma, come deviazione da tutto ciò che è organizzato, erano senz'altro esponenti i poeti lirici britannici che avevano recepito nella loro visione il romanticismo tedesco, secondo il quale tutto ciò che è spaventevole e incontrollabile diventa sublime. John Polidori, alla fine di quella notte a Villa Diodati, scrisse Il vampiro, che si disse essere la rappresentazione di Lord Byron, con il quale era legato da un rapporto estremamente conflittuale. Lord Byron a sua volta era amico di Mary Shelley, la quale era stata influenzata dalle idee femministe della madre, Mary Wollstonecraft, che aveva scritto il primo manifesto femminista nella storia del 1792, e dal padre, William Godwin, filosofo anarchico, che a sua volta aveva influenzato il marito di Mary Shelley, Percy Shelley, nelle sue opere La maschera dell'anarchia e Il Prometeo liberato, dove, rivisitando la tragedia di Eschilo, spiega come la ribellione contro il tiranno possa sfociare solo nel suo rovesciamento. Quella notte, dopo le letture di Fantasmagoriana, ognuno scrisse quel che restò nella storia e Lord Byron scrisse quanto segue. Thank you. Nell'anno 1700, avendo deciso da tempo di percorrere lande fino ad allora poco frequentate dai viaggiatori, partì con un amico, cui darò il nome di Augustus Darbel. Era di pochi anni più grande di me, uomo di grande ricchezza e di antico lignaggio, privilegi che una grande intelligenza gli impediva sia di sottovalutare che di sovrastimare. Alcuni strani fatti della sua storia personale lo avevano reso interessante ed anche stimabile ai miei occhi, cosa che nei suoi modi riservati, nei segnali che mandava di tanto in tanto di un'inquietudine quasi prossima all'alienazione di mente, fecero mai venire meno. Per la vita pubblica, che avevo iniziato tanto presto, ero ancora giovane e la mia amicizia con lui era molto recente. Eravamo stati educati alle stesse scuole ed università, ma egli era parecchio avanti a me ed era stato compiutamente iniziato a quello che chiamiamo il mondo, laddove io ero ancora un novizio. Mentre ero in quella situazione, avevo sentito parecchie cose sulla sua vita passata e presente, e benché in quei racconti ci fossero svariate e inconciliabili contraddizioni, potevo ancora inferire dall'insieme che non era un uomo ordinario, e anzi, uno di quelli che per quanta pena si prendano di non farsi notare, rimarrebbero comunque notevoli. Avevo dunque coltivato la sua conoscenza e cercato di ottenere la sua amicizia, che però pareva impossibile da ottenere. Quali che fossero gli affetti che poteva aver avuto, parevano essere o spenti o sublimati. Che avesse un'acuta sensibilità avevo sufficienti occasioni per osservarlo, poiché, per quanto potesse controllare le sue emozioni, non poteva nemmeno nasconderle tutte. Eppure aveva il potere di dare ad una passione la parvenza di un'altra e in una maniera tale che era difficile definire la natura di quanto avesse luogo nel suo intimo, e le sue fattezze cambiavano espressione con tanta velocità, per quanto in maniera impercettibile, che era vano andare alla ricerca delle cause. Era evidente che fosse preda di un'incurabile inquietudine, ma se ciò derivasse dall'ambizione, dall'amore, dal rimorso o dal dolore, o da tutte queste cose insieme, o magari anche solo da un'attitudine morbosa e prossima alla malattia, non riuscivo a capirlo. C'erano dei fatti che venivano addotti per supportare il propendere per l'una o per l'altra causa, e però, come ho già detto, erano talmente contraddittori e in contraddizione che non si poteva con certezza prenderne uno e attenersi a quelli. Dove c'è mistero, si immagina in genere che ci sia anche il male. Non lo so se sia vero, ma in lui di certo c'era il primo e non ho mai potuto verificare quanto ci fosse il secondo. Ed era difficile, per quanto lo riguardava, ammetterne l'esistenza. I miei primi tentativi vennero ricevuti con una certa freddezza, ma io ero giovane ed era difficile scoraggiarmi, e alla fine riuscii ad ottenere, in una certa misura, quel dialogo fatto di luoghi comuni e quella minima confidenza relativa alle faccende quotidiane, che, creata e cementata dalla vicinanza degli interessi e dalla frequentazione, si è soliti chiamare intimità o amicizia, a seconda delle idee di chi usa queste parole per esprimerli. Darbel aveva già viaggiato parecchio e a lui mi ero rivolto per avere informazioni sulla rotta del viaggio che progettavo. Desideravo segretamente che si convincesse ad accompagnarmi. Era una speranza fondata, tenuto conto dell'inquietudine ombrosa che avevo osservato in lui e alla quale l'eccitazione che pareva avere riguardo a soggetti di tal fatta, assieme alla sua esibita indifferenza per ciò che gli era immediatamente accanto, infondeva nuova forza. A questo desiderio al principio allusi soltanto, quindi lo feci manifesto. La sua risposta, benché in un certo senso me l'aspettassi, fu per me una piacevole sorpresa. Acconsentì. E dopo aver fatto i debiti preparativi, cominciammo i nostri viaggi. Dopo aver attraversato diversi paesi dell'Europa meridionale, dirigemmo la nostra attenzione all'Oriente, secondo la nostra intenzione originale. E fu mentre avanzammo in quelle terre che accadde l'evento su cui si basa quanto debbo raccontare. Thank you. La fibbra di Darvel, che all'aspetto pareva essere stato in gioventù oltremodo vigoroso, si era venuta indebolendo da qualche tempo, senza che vi fosse alcuna malattia visibile. Non aveva né tosse né febbre, eppure giorno dopo giorno si faceva sempre più debole. Aveva abitudini morigerate, non si tirava indietro né si lamentava della stanchezza, eppure deperiva a vista d'occhio. Divenne sempre più taciturno ed insonne e alla fine si aggravò al punto tale che mi allarmai, dato che lo ritenevo in serio pericolo. Avevamo deciso, arrivati a Smirne, che avremmo fatto un'escursione alle rovine di Efeso e di Sardi, ma dato il suo stato di salute cercai di dissuaderlo. Invano, la sua mente pareva oppressa da un peso e le sue maniere avevano una tale solennità che contrastavano con la sua fretta di partire per quella che consideravo una semplice gita, inadatta a un malato cronico. Ma non mi opposi ulteriormente e in capo a pochi giorni partimmo insieme, accompagnati soltanto da una guida e da un unico giannizzero. Eravamo a metà strada, in direzione delle rovine di Efeso, e ci eravamo lasciati alle spalle gli ubertosi dintorni di Smirne per prendere la via, selvaggia e desolata, che tra gole d'acquitrini conduce alle poche capanne che si aggrappano ai mozzi colonnati del Tempio di Diana, ai muri senza tetto della cristianità scacciata e all'ancor più recente ma non meno assoluta desolazione delle moschee abbandonate, quando un improvviso malore costrinse il mio compagno a fermarci in un cimitero turco, le cui tombe sormontate da turbanti erano l'unico segno che la vita umana aveva un tempo abitato quelle terre selvagge. L'ultimo caravanserraglio che avessimo visto era diverse ore alle nostre spalle, non si vedeva né si poteva sperare neppure nell'ombra di una città, o almeno di una casetta, e quella città dei morti pareva l'unico rifugio per il mio sventurato amico, che sembrava sul punto di divenirne l'ultimo abitante in ordine di tempo. In tale situazione mi guardai intorno alla ricerca di un posto dove potesse sdraiarsi comodamente. Diversamente da come appaiono normalmente i sepolcreti maomettani, questo aveva pochi cipressi e anche questi erano distribuiti sparutamente per tutta l'area. Le tombe erano per la maggior parte crollate e deteriorate dal tempo. Fu su una delle più imponenti, ai piedi di uno degli alberi più frondosi, che Darvel si appoggiò con grande difficoltà in posizione semisdraiata. Chiese dell'acqua. Ero dubbioso che ne avremmo trovata e mi accinsi ad andare a cercarla, maldisposto ed esitante, ma lui volle che rimanessi. Rivolgendosi a Suleiman, il nostro giannizzero, che di fianco a noi fumava in tutta tranquillità, gli disse: «Suleiman, verbana su, porta dell'acqua», e cominciò a descrivere nel dettaglio il luogo dove si poteva trovarne, in un piccolo pozzo per cammelli a qualche centinaio di metri sulla destra. Il giannizzero obbedì. Io ero stupito di come lo sapesse, e lui mi sembrava disse che fosse stato lì. Io le domandai che cosa avesse mai fatto in un posto dove nessuno rimarrebbe un minuto in più del dovuto, ma a questa domanda non ricevetti alcuna risposta. Nel frattempo tornò sulle mani con l'acqua, lasciando la guida e i cavalli alla fontana. Spenta la sete, Darvel parve rianimarsi un po'. Io cominciai a sperare che forse avrebbe potuto andare davanti o anche tornare indietro e lo incoraggiai a provarci. Lui rimase in silenzio, come se raccogliesse le energie per fare lo sforzo di parlare, e cominciò. Questa è la fine del mio viaggio e della mia vita. Sono venuto qui a morire, ma ho una richiesta da fare, un ordine, perché queste saranno le mie ultime parole. Lo farai? Io non spero né voglio null'altro se non questo, che tu tenga nascosta la mia morte a qualsiasi persona vivente. Giuralo! Io pronunciai il giuramento e questo parve essergli di sollievo. Si tolse dal dito un anello col sigillo su cui vi erano delle scritte in arabo e me lo porse. Poi continuò. Al nono giorno del mese, a mezzogiorno in punto, il mese può essere quello che vuoi ma il giorno deve essere quello, devi scagliare quest'anello nelle correnti salate che si gettano nella baia di Eleusi. Il giorno dopo, alla stessa ora, devi recarti alle rovine del tempio di Cerere e aspettare un'ora. Il nono giorno del mese. Quando feci notare che quello era proprio il nono giorno del mese, cambiò espressione e si arrestò. Nel frattempo, mentre si faceva sempre più debole, una cicogna con un serpente nel becco si posò su una tomba vicino a noi. Senza divorare la preda, pareva guardarci fisso. Non so cosa mi spinse a cacciarla, ma il tentativo fu inutile. Fece dei giri in aria e ritornò esattamente nello stesso punto. Darvel la indicò e sorrise. Parlò più se stesso che a me, io le ignorai, e le sue parole infine non le compresi. Poi aggiunse, non importa, devi seppellirmi qui questa sera, esattamente nel punto dove si è posato quell'uccello, gli altri miei ordini già li conosci. E poi si mise a darmi altri suggerimenti su come avrei dovuto nascondere la sua morte. E poi mi chiese, quando ebbe finito, se stessi guardando l'uccello e il serpente che gli si contorceva nel becco. Io non vi trovavo nulla di strano, era la sua preda per natura. Lui sorrise in un modo orrendo e poi disse che non era ancora arrivato il momento. Ma mentre parlava, la cicogna volò via. Io la seguii con gli occhi per un momento, neppure il tempo di contare fino a 10. Poi sentii il corpo di Darbell come crescere di peso contro la mia spalla e quando mi voltai a guardarlo mi accorsi che era morto. Quella certezza improvvisa, senza possibilità alcuna di dubbio, mi sconvolsi. Avrei potuto attribuire la sua morte ad un veleno, ma sapevo bene che non aveva avuto la possibilità di assumerne alcuno senza essere visto. Intanto calava la sera e io sapevo che non mi restava altro che soddisfare la sua richiesta. Alla fine, con l'aiuto di Suleiman e della sua sciabola, seguimmo tutti i suoi ordini fino a che l'ora ce le consentì e poi lo collocammo sopra il sepolcro. Nonostante la sorpresa e il dolore, non piansi.